I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Buongiorno. La settimana che è appena iniziata sarà una settimana molto importante per il mondo bancario. E non solo perché i principali istituti di credito pubblicheranno i loro bilanci, ma anche e soprattutto perché da questi bilanci potremo capire, caso per caso, a quanto ammonti e quanto pesi il problema dei cosiddetti crediti inesigibili, ossia le sofferenze bancarie. L'ammontare dei miliardi prestati dal sistema bancario ad imprese o a persone fisiche che non potranno più tornare indietro, queste sono le sofferenze, è pari a 180 miliardi di euro, una cifra record che continua a lievitare di mese in mese. Ma se a queste si sommano anche i cosiddetti incagli e i crediti scaduti, la cifra tocca i 360 miliardi di euro. Il mondo bancario chiede con forza che si vada verso la creazione di una bad bank, ossia una banca dove fare confluire tutti questi crediti ormai difficilmente esigibili. Ha avuto l'appoggio sabato scorso dello stesso governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nel corso del Forex, e ieri il ministro dell'economia Piercarlo Padoan ha detto che si sta studiando una soluzione che permetterebbe alle banche di liberarsi di questi crediti e avere maggiore risorse per fare nuovi prestiti, ci auguriamo con maggiore successo. Non è colpa delle banche, chiaramente, o non solo delle banche, se si è arrivati a questo record di sofferenze. La crisi ha giocato un ruolo determinante e poi alcuni errori sulla qualità dei prestiti ci sono stati. Quello che però è importante, quanto ha ricordato ieri sempre lo stesso ministro Padoan, si vada verso una soluzione il più possibile orientata al mercato e il meno possibile orientata al pubblico. Non vorremmo infatti che questa operazione, che pure ha dei vantaggi per le banche, per il mondo dell'economia, ricadesse sulle finanze dello Stato. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Crisi economica e corruzione vanno di pari passo, lo dice la Corte dei Conti, cioè l'organo previsto dalla Costituzione che esercita il controllo sulla corretta gestione delle risorse pubbliche. Il presidente della Corte, Raffaele Squitieri, durante l'apertura dell'anno giudiziario non solo ha ribadito come la corruzione abbia effetti devastanti sulla crescita economica, ma anche che il malaffare può compromettere la stessa speranza di tornare a crescere. I fatti di queste settimane, a partire dall'esplosione dell'inchiesta Mafia Capitale, non indicano forse una correlazione diretta tra la crisi e la corruzione. Tuttavia, in queste settimane ognuno di noi ha toccato con mano quanto l'illegalità sia diffusa e quanto sia dannosa per la collettività, con un pericolo ulteriore, ovvero che tra la gente possa a un certo punto prevalere una sorta di rassegnata assuefazione ai disonesti, come una malattia senza rimedi e contro la quale nessuno può fare nulla. L'allarme della Corte dei Conti giunge proprio mentre il governo e il Parlamento sono impegnati in una riforma che promette di inasprire le pene per i reati di corruzione e anche sul falso in bilancio. È un intervento che ha convinto anche Raffaele Cantone, presidente dell'autorità anticorruzione. Ora bisogna dimostrare nei fatti che questa è davvero la direzione giusta per contrastare i disonesti e dare una risposta anche al richiamo giunto dal presidente Mattarella, che considera la lotta alla mafia e la lotta alla corruzione priorità assolute. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.